618. Salame inglese. Questo dolce, che si potrebbe più propriamente chiamare pan di Spagna ripieno e che fa tanto bella mostra nelle vetrine dei pasticceri, sembra, per chi è ignaro dell'arte, un piatto d'alta credenza, ma non è niente affatto difficile ad eseguirsi. Fate un pan di Spagna con le seguenti dosi e per cuocerlo al forno distendetelo all'altezza di mezzo dito in un teglione possibilmente rettangolare, unto col burro e spolverizzato di farina. Zucchero in polvere grammi 200, farina finissima grammi 170, uova numero 6. In questo e consimili casi, alcuni trattati dell'arte suggeriscono di asciugar bene la farina al sole o al fuoco prima di adoperarla, per renderla forse più leggera. Lavorate i rossi d'uovo con lo zucchero per circa mezz'ora. Unite ai medesimi le chiare ben montate e dopo averle mescolate ad agino, fate cadere la farina da un vagliettino oppure tenetevi al metodo indicato al numero 588. Levato dal forno, tagliate dal medesimo, quando è ancora caldo, un numero sufficiente di strisce, larghe 2 centimetri circa e lunghe quanto il pezzo del pan di Spagna al quale devono servire di ripieno. Ma perché queste strisce facciano un bell'effetto, devono prendere colori diversi. Quindi alcune aspergetele di rosolio bianco e resteranno gialle, altre di alchermes e figureranno rosse, e alle ultime fate prendere il nero con un rosolio bianco ove sia stata infusa della cioccolata. Questi filetti così preparati disponeteli uno sopra l'altro alternandoli nel mezzo del pan di Spagna rimasto intero, la superficie del quale avrete prima spalmata di una liquida conserva di frutta e spalmati pure i filetti onde stiano uniti. Tirate i lembi del pan di Spagna sopra i medesimi e formate un rotolo tutto unito, il quale, tagliato poi a fette, presenterà per ripieno una scacchiera a diversi colori. Questo dolce si può far più semplice per uso di famiglia nel seguente modo, bastando la metà della dose anche per una teglia grande. Spalmate il pan di Spagna con rosolio e conserva di frutta, sia di cotogne, di albicocche o di pesche, poco importa. Distendete sulla medesima delle fettine sottili di candito e rotolate come un foglio il pezzo intero sopra se stesso. Ma nell'una o nell'altra maniera sarebbe bene, per dargli più bell'aspetto, di ornare la superficie o con un ricamo di zucchero o con una crosta di cioccolata come usano i pasticceri. Ma codesti signori, per fare tali cose a perfezione, hanno certi loro segreti particolari che non insegnano volentieri. Conosco però, così alto alto, un loro processo speciale che troverete descritto al numero 789. Frattanto, contentatevi del seguente, che è più semplice ma non del tutto perfetto. Intridete dello zucchero a velo con chiara d'uovo, facendolo molto sodo, e distendetelo sopra il dolce uniformemente, oppure mettetelo in un cartoccio foggiato a forma di cornetto e strizzandolo per farlo uscire dal piccolo buco in fondo, giratelo sul dolce per formare il disegno che più vi piace. Se la crosta la fate nera, prendete grammi 60 di zucchero a velo e grammi 30 di cioccolata in polvere, mescolate, intridete ugualmente con chiara d'uovo e distendete l'intriso sul dolce. Se non si asciuga naturalmente, ponetelo sotto l'azione di un moderato calore.